Graziella 13, 5 luglio, ora 12:22, Tennens numero 2. Però sono quelle piccole, quelle di oggi. Cioè, quelle normali, piccole. Da 0,33. Piccole. No, questa, guarda, non dico bugie, è da 27,5. Vero. La differenza c'è notevole. Quella da 35. Va bene, andiamo avanti. Andiamo a Nicaragua. Sì, arrivo in Nicaragua mentre ci sono gli elicotteri, le cose. Si arriva a Granada, dove è casa di mio fratello, col secondo figliolo nato. E quindi Alejandro quando... no, siamo Alessandro, quanti... Alessandro è il primo e il resto dell'84. Aveva 4 anni e l'altro appena nato. Cioè neanche 4, 3, sì, l'altro appena nato. Qui siamo nel 87. L'estate. No, era a Natale. Natale. Vacanze di gennaio. Cioè. Aspettativa non pagata più vacanze natalizie. Okay. Sì, una roba così. Cioè tipo se l'ho partita... subito dopo Natale perché costava meno e poi credo di... io sono tornata prima della mamma, la mamma poi ha cominciato, costava là sempre 3-4 mesi, svernava così, risparmiava il riscaldamento. Io sono ripartita poi da sola, secondo me tipo a metà febbraio, una par così. Vai. Quindi voi scendete, atterrate, viene a prendersi mio fratello. Non mi ricordo con che mezzo, una specie di furgonetta, la chiamava sempre furgonetta, in Nicaragua, perché in Repubblica Dominicana non ho mai sentito furgonetta. In generale delle specie di gipette, insomma vabbè, si va con la furgonetta a casa sua, e intanto a Granada in quel momento erano tutti molto agitati perché subito di dietro era caduto un elicottero americano, quindi anche, cioè, anche Granada era un po' sotto attacco. Comunque vabbè, non importa, si va, sì. Intanto vedo questa casa, è questa casetta bassa, cioè un piano solo, dietro era bello perché c'era una specie di orto, un po' di piante, un po' di palme con le bananette, eccetera. Davanti era il bagno, quindi non era asfaltato. Non solo non era asfaltato, non c'era neanche la fogna. Il mio fratello aveva fatto una fossa biologica, ma la gente scaricava sui fossati lungo la strada e razzolavano continuamente dei maiali, perché loro allevavano maiali che poi rendevano, anche perché non occorreva dargli da mangiare. Li mollavano in strada che qualcosa trovavano, sti maiali alla ricerca di cibo, quindi spesso l'immondizia li buttava fuori, che tanto le mangiavano i maiali, per dire com'era messa sta roba. Non si comincia a star lì, io ora ho dei flash perché ci fu la festa del battesimo del mio nipote, dove arrivò molta gente che erano gli amici delle cooperative del mio fratello. All'epoca mio fratello lavorava ancora per il MAL, anche se si era trasferito lì, per il movimento Laici America Latina. Ah, okay. E quindi talvolta andavo ogni tanto nella zona di Tegucigalpa, e una volta portò anche me, e fu, boh, mi emozionai un po', perché mi portò in una cooperativa di contadini. Cioè, che di fatto, io ho capito, era nata dopo un po' che lui era andato là, il periodo in cui ancora vivevano, lui viveva da solo prima di sposarsi, quindi proprio all'inizio, quando viveva lassù sui monti, e mi portò in questo posto per arrivarci, non eravamo neanche sicuri di arrivarci, perché dico no, ci arriviamo, però bisogna che vediamo se c'è questa valle che la attraversiamo, perché... non è che ci sono ponti, bisogna che ci sia un periodo di bassa pioggia. Mi disse no, ma guarda, non ci fermiamo mai, perché ora no, è tranquillo, se no non ti avrei portata, un po' una zona di contra. Mi diceva no, vedi, perché lì c'è il monte, lì ci sono tutti quegli alberi, una volta mi hanno fermato, sono saltato fuori, quindi c'è un fatto. Quando ci toccava fermarci, perché lui poi conosceva un po' tutti là, mi ricordo, ci si fermò invece in una casa dove c'era una famiglia che lui conosceva, e mi ricordo che lui mi aveva detto guarda, stai attenta, non bere l'acqua che ti danno, perché loro sono abituati, te sicuramente ti venga le amede, a me sono veduto, sono stato male, mio fratello era più fragile di me da quel punto di vista, insomma, vabbè. Mi ricordo che c'era sta donna che ci fa così amorevolmente sto caffè, questo coso, E allora mio fratello mi fa strane facce di dire, no, ma guarda, io ho pensato, ma senti, ma in quel parte l'acqua è bollita del caffè, in tazzi ci sarà mai, ma io mi sono mai ammalata. Io dopo quella volta ho detto, senti, so da ammalarmi, ma ammalerò, non ho mai preso nulla. Quindi era così contenta che io avessi bevuto il suo caffè, perché secondo me i bianchi con me, non, mica glielo bevevano, avevano paura di pigliarsi le malattie. No, è stato bello quando si arriva, si va, e a un certo punto si arriva una specie di osi, e vedo dei trattori, delle cose così. E c'era il capo, no, perché qua è una cooperativa, e mi spiega che lì, cioè, inizialmente lui era lì, e fu il periodo in cui i sandinisti divisero le terre. E quindi quello era un latifondo che però era stato dato a un gruppo di contadini che praticamente le loro famiglie facevano la fame, che stavano non so dove a fare la fame, ed era diventato loro di proprietà della cooperativa, del gruppo di contadini. Inizialmente non c'era niente, c'era solo la terra, quindi erano andati là per disboscare il pezzo, per cercare di mettere la cultura, per iniziare a mettere le piante, non so perché, cosa cazzo coltivassero, eccetera, e costruire delle casette. Ma i primi due anni andavano solo i maschi e ci stavano mesi, finché non sono riusciti a mettere insieme il villaggio. A quel punto sono andati con le famiglie. E quindi mi ha spiegato questa cosa. Io non so, perché spagnolo non l'ho mai capito, non lo capisco neanche adesso, però se parlano piano qualcosa capisco. Questo capo villaggio, perché secondo me funzionava un po' così, cioè quando siamo arrivati, è arrivato subito il capo villaggio, erano tutti, diciamo, tutti a farci il caffè, a far questo, a farci vedere. E era molto chiacchierone e quindi cominciò a parlarmi, piano piano. E quindi riuscivo anche a capire, mi raccontava il mito del mio fratello. Ed era molto entusiasmato, no, perché Luciano, Luciano qua, Luciano là. E la mitologia narrava di una notte buia e tempestosa. Che succede? La gatta. Cosa fa? Vomita? Mi sembra... Andiamo. Metto la pausa. Sì. Il mito di Luciano. Ecco, la vicenda era questa che narravano. La notte della Befana, di appena loro erano andati lì, era venuta giù tanta pioggia e non ci si arrivava più. Ma loro avevano finito la roba da mangiare, perché appunto non c'era niente, e il mio fratello aveva detto che sarebbe andato a portargli dei sacchi di fagioli e quindi avrebbero mangiato questi cazzi di fagioli. Ma però pioveva tanto, c'era la valle bloccata e quindi loro avevano tanta fame, hanno aspettato a tanto tempo, hanno aspettato, non è possibile che Luciano arrivi, è tutto bloccato, non può passare la macchina. Che, questa valle era tipo 7-8 km in giù. E quindi sono andati a letto affamati, tanta fame, la mattina si sono alzati, si sono svegliati, escono, va, e attaccato davanti alla casa c'erano due sacchi pieni di fagioli. E cos'è successo? Cos'era successo? Che Luciano ha visto che non si passava e quindi non è arrivato mai, ma ha pensato che loro avevano fame. Quindi cosa ha fatto Luciano? L'ha bogato a piedi con questi due sacchi di fagioli. È arrivato, gli ha lasciato questi due sacchi di fagioli e dopo ha pensato, poveretti, dormono, li porterei meglio che torno indietro se non resto bloccato. E quindi gli ha attaccato lì due sacchi di fagioli ed è tornato a casa. Quindi è stata la Befana che gli ha portato i fagioli. Quindi c'era questo amico che da lì sono stati sempre grati per questi due sacchi di fagioli. Ma nel frattempo era un villaggetto di 200 persone. Ma la cosa che dicevi all'inizio mi ha emozionato era questo racconto del tuo fratello. Sì, cioè perché dai, cioè, capito, era un po' una cosa, perché poi per come me lo raccontava lui, no, che cercava di spiegarlo, e in effetti poi sti nicaraguensi sono molto socievoli. In particolare poi c'era uno che veniva sempre a trovarci, non so chi fosse, quando eravamo lì e giocavamo a poker. E giocavamo a poker, ma era tanto ingenuo. Cioè io lo battevo sempre e lui non si capacitava che una donna lo battesse a poker, ma perché loro non sapevano bleffare, non avevano il concetto di bleff. E quindi io lo battevo regolarmente. E nel frattempo avevo già iniziato a giocare a biliardo con Ornella, quindi dicevo, ma io gioco anche a biliardo, davvero, ma gioco a biliardo? Cioè, sì, io gioco a biliardo in Italia, ma qua ci sei biliardo? No, qua non ci sono, però sai, anch'io ho giocato negli Stati Uniti a biliardo. E così dicevo, no, perché sai, c'ho una stecca, c'ho qua, c'ho là. Il giorno in cui dovevo partire, è arrivato la mattina presto, prima che io mi alzassi, e mi ha regalato la sua stecca da biliardo, perché tanto lui non avrebbe mai più giocato in Nicaragua a biliardo, non c'erano i biliardi. Questa stecca da biliardo era una stecca divisa in quattro pezzi che si abitava, ovviamente dentro c'è metallo. Oh, mi fermarono in aeroporto, credevo che ci avesse un mitra, perché l'avevo visto metal detector, vedeva sta roba, cioè come fosse un mitra. È venuta a regalarmi la stecca, poverino, che Dai. non so se ce l'ho ancora, se, boh, perché poi era una stecca quasi inutilizzabile, perché era antica come non si sa. Poi la stecca da biliardo, cioè deve essere molto dritta, lì non si abitava neanche più bene, quindi era tutta dondolante. Non è Senti, che avesse. ma all'inizio di questa esperienza hai detto che Nicaragua è stato un momento determinante, perché Sì, fu perché allora determinante. mi trovai in questo contesto, ma nel frattempo gli elicotteri giravano sempre, c'era questa gente, mi colpì molto anche, allora era Natale, quindi era prima di Natale che siamo partiti, non dopo, perché c'erano a fare i regali di Natale. Questi regali di Natale, non mi ricordo perché s'andò, volevo andarci, secondo me la mia cognata, a Managua c'era un negozietto, ma sarà stato grande come questa stanza, dove vendevano la roba americana. La roba americana, era la Coca-Cola dei jeans che costava quanto noi, cioè lì non avevano niente, c'era l'embargo, non gli arrivava niente. E quindi c'era sta gente che faceva la fila per entrare in questo mini negozietto per spendere magari i 10 dollari che gli aveva mandato il parente dagli Stati Uniti per comprare, c'era le lattine di Coca-Cola col vassoio, non so, ci saranno anche adesso, sai, quattro Coca-Cole e il vassoietto della Coca-Cola, con questo Babbo Natale fatto a slitta. E quindi il mio mito della rivoluzione alla fine divenne un po' come il mito della classe operaia, cioè il loro desiderio prevalente era avere questo cazzo di Coca-Cola degli Stati Uniti. E quindi tutto quello che avevano lo investivano lì, poi tu andavi invece nei supermercati loro, non c'era più nulla. Quando andava bene qualche sacco di riso, cosa mi faceva? Aspetta, prendere il cibo. Ah, no, vediamo, gli vuole. Vuoi questa? La devi te, va. Mi dai qualcuno in mano così Ah, te la proprio rimangi. sì. Sui biscottini della ratta. E che dicevo, nei negozi invece, nei supermercati, c'era solo un tipo di cosa che riempiva tutti gli scaffali, che erano delle vaschettine di plastica per lavare i bambini, perché c'era stata questa ditta che faceva plastica, era l'unica roba che c'era in tutto il Nicaragua, l'unica produzione era vaschettine di plastica, secchi di plastica, e nei supermercati quello trovavi. Poi spesso il riso, questa roba qua, in qualche maniera bisognava conoscere, fare, brigare, un po', non era un mercato nero, ma quasi, perché non lo trovavi. E c'era questo negozietto nel nulla di Managua dove andava questa gente. Certo che ti fa venire i dubbi, cioè di dire è questo Nicaragua. Poi c'era il fratello più giovane della mia cognata, tale Pablito, abitavano vicino a mio fratello, ma lui era di leva, avrebbe dovuto andare a fare il militare, lui non voleva andare a fare il militare, non voleva essere ucciso dai contras, non voleva. Quindi decise di darsi la macchia. Però aveva paura di essere trovato. Io mi ricordo sto Pablito che mio fratello a Natale gli regalò un radioregistratore che passava per il bario di giorno, questo radioregistratore qua a tutto volume, gli pareva di aver tutto lui. Era un ragazzino, aveva avuto 17 anni, però aveva paura che lo stanassero e lo mandassero a combattere, quindi di notte lui dormiva. A casa del mio fratello c'era di dietro nell'orto un piccolissimo barchino dove dentro c'era, ci stava giusto giusto, una gomma di camion, sai quelle che noi usiamo per. E lui dormiva su questa gomma di camion, perché così non era a casa sua, non era a casa del mio fratello, era imboscato lì. Però in tutto ciò, poi di giorno partì con questo coso, cioè, come fa un ragazzo di Giacettagna che gli ha regalato il motorino, paro paro. Poi appunto viene Natale, poi l'ultimo dell'anno, pareva che ci fosse la guerra un'altra volta, dico madonna, sono arrivata un'altra volta a bombardare, ma che avevano dei razzi grandi così e si mettevano sulle strade, pigliavano tutte le strade a sparare i razzi, sono andati via per una settimana, cioè tutte le munizioni del Nicaragua li ha sparati a questo già l'ultimo dell'anno. E ogni tanto però arrivavano gli elicotteri, arrivavano gli americani, c'erano incontri che attaccavano, tutta una parte così. Io quello che mi rimase poi, e questo mi ha cambiato la vita, io pensavo, madonna, ma che cazzo di vita fanno? Ma riescono a essere felici? Cioè vedere il Pabrito con sto radioregistratore felice, perché aveva un radioregistratore che gli faceva la musica a tutto volume, forse come negli Stati Uniti, non so perché, vive a Miami ora, quindi forse sì, quello era il suo mito. Però comunque sei sotto le bombe. Non sai se arriverai domani, non sai se stanotte arriva l'esercito e ti manda nella giungla a sparare contro, non sai tutto questo, ma ti ritagli un pezzo di vita. Cioè, pensa, ma sarò coglione? Io in Italia ho paura che capiscano che sono lesbica. Cioè, proprio guarda, mi feci quel ragionamento perché comunque mi colpì la voglia di vivere in una situazione dove la vita non vale niente, cioè come la vita delle persone non valeva niente, proprio perché non valeva niente, ci si aggrappavano a quel pezzo, strappavano pezzi di felicità, pezzi anche di normalità. Quando tornare dopo questo mese e mezzo, non so, non sto a raccontare tutto delle isolette, non sto a raccontare tutto, perché comunque il fatto principale è questo, il resto vissuto cose di turismo bello, andare a vedere il vulcano, andare dalla parte del Pacifico, andare al mare, ho anche mangiato l'uovo di tartaruga, all'epoca non si faceva tutta questa, e mio fratello diceva buone l'uovo di tartaruga, guarda ce ne portano anche 30, io ne mangio 30. Dopo hanno anche portato via quella zona, un uragano ha portato via tutto, quindi non c'è più né tartarughe né albergo più niente. Ma a parte questo, che può essere una vicenda di una qualsiasi vacanza, quello che proprio mi rimase, a parte tutto ciò, secondo me mi fu molto fissato nella memoria per il viaggio di ritorno, perché il viaggio di ritorno ritornai da sola, sempre con lo stesso giro, quindi questo aereo dell'Aeroflot che faceva Cuba, poi faceva poi si arrivava la mattina in Irlanda, dove io andai in Irlanda, io ignorante com'ero, aver dormito poco e così via, volevo un caffè, vado al bar, questi mi dicono Irish Coffee, io, sì Irish Coffee, ma tanto sarà il caffè di qua, quindi non mi sono trovato, dove ormai lo bevo, come faccio a spiegare che io non intendevo che volevo il superalcolico, verrò il superalcolico, arrivo a Mosca. A Mosca era ancora Mosca pre-89, non era ancora successo l'89, quindi a Mosca dovevo dormire due notti, perché chi andava a Roma dormiva solo una notte. Chi andava a Milano, come me, doveva dormirci due notti per tagliare la coincidenza. Non è che la mamma me l'ha detto, non ti preoccupare, perché io l'altra volta ti portano a fare il giro di Mosca, in pullman, scortate tutte, ma almeno vedi Mosca, ti porta alla Piazza Rossa. La mamma c'era andata, un viaggio precedente. Arrivo io, ma no, c'era stato qualcosa, per cui niente, vietato, vietatissimo, momento pericoloso. Quindi ci vengono a prendere l'aeroporto per portarci in questo albergo. Innanzitutto io non ho capito quando sono uscita dall'aeroporto, eravamo scortatissimi da delle guardie, io avevo un po' fatto un po' di amicizia in aereo con una colombiana, una ragazza giovane che però andava a Roma, quindi ci ha messo in camera assieme, almeno eravamo due. Però ci portano in questo posto, fuori Mosca, almeno è durato un tre quarti d'ora il viaggio, quindi però non si vedeva, avevano messo tutta carta di giornale in finestrini in modo che non vedessimo fuori. Quando siamo arrivati ci hanno fatto scendere accostando proprio alla porta d'ingresso di modo che non vedessimo, circondati da tutte le guardie, ci hanno infilato in un albergo. E quando ci hanno assegnato le stanze, ci hanno messo in ascensore, ci hanno portato a questa stanza e non si vedeva fuori perché era tutto coperto da delle tende, quindi a me parla ben visto degli alberi, una roba in mezzo alla foresta. ci danno questo posto a dormire, e poi questo ascensore faceva solo da quel piano lì a zero. A zero, dove c'era il posto dove si cenava, si pranzava, dove io mi ricordo lì c'era tanta penuria, cioè anche la Russia non se la passava bene. Mi ricordo che non c'era zucchero, c'erano tanti indiani che dormivano lì, forse su quel volo che poi da lì andavano a Delhi, non lo so. Comunque, quando c'è stata la cena, tanti indiani, ma questi indiani bevevano solo tè. Il tè c'era, ma non c'era zucchero. Ci davano, io non ho mai visto delle zolette così piccole, ma piccolissime, una testa. In compenso c'erano di gran cose di caviale, che facevano schifo agli indiani. Quindi io cominciavo a fare una specie di baratto. Andavo per i tavoli e facevo zucchero in cambio di caviale, con gli indiani, cioè mangiato un monte di caviale, un posto di fuori. Però io poi pensavo che almeno ci fosse la libertà di star giù. No. Alle 10 chiudevano l'assessore, quindi ci hanno mandato su. Mosca col cazzo, non si facevano giri a Mosca. La prima sera è andata anche abbastanza bene, perché c'era la colombiana un po' bianca chiarato, poi abbiamo dormito, ma la mattina dopo la colombiana è partita. Quindi ho passato tutta la giornata, finché non mi hanno mollato l'ora di pranzo, chiusa in questa camera, dove è arrivata a un certo punto anche una che ha capito che l'unica lingua che poteva parlare con me era il francese, e quindi mi ha spiegato che erano venuti a fare la disinfestazione degli scarafaggi, cioè quello, insomma, bel posto. Ma è stato una specie di prigionia, perché c'era una filo di fusione sempre accesa. Io quando poi è venuta ora anche di dormire, con la stanchezza, che non vuoi altro che dormire ma non hai più sonno, questa musica, vabbè, la abbasserò, non si abbassava, la spegnerò, non si spegnerà, toglierò la presa. La presa entrava nel muro, non si poteva. Pensate, io se la taglio mi arrestano questi. E mi ricordo che coprì con i cuscini, di modo che la odiavo proprio, sapevo di fusione questa musichetta. Comunque, dopo questi tre giorni di viaggio fatti così, arrivo a Milano. Mi viene a prendere Ciccio a Milano, con l'Anna Bolognini, mi ricordo, venne a prendermi con questa lettera che veniva al circolo, e mi riporta a Verona. E io la vedo un po' strano il Ciccio. Ciccio da quel momento lì non faceva che parlare di lesbiche, rompeva i coglioni a tutte queste ragazzine che nel frattempo avevano iniziato a venire. Cioè, mi dava proprio noia. Cioè, ma non solo, o non tanto perché io fossi gelosa, perché si lagnavano con me. Cioè, no, ma che fastidiosa che è Ornella, ma ed è ancora così, eh. Cioè, non ha misura. Quanto ha socializzato la Betty? Che si fissò con la Betty, cioè, appunto, la Betty è terrorizzata da Ornella, poi la Betty è stramba anche lei. Ma su questo un altro TikTok, era un'altra persona, era impazzita improvvisamente ad aver conosciuto tutte queste lesbiche giovani. E diceva, no, ma quella lì mi piace, sai, no, ora te, tanto con te non ci stanno, ma con me, sai, io ci ho provato, anzi, non sa se è lesbica, però, ma dei discorsi che un maschio stalker non li avrebbe fatti così esplicitamente. Io non la sopportavo più, cioè fu quello poi che in realtà, lei dice che mi ha lasciata, ci siamo lasciate, perché a un certo punto ho fatto una serie di cazzate parallelamente a cose che invece, quando io sono tornata, venivo da quell'esperienza. Quindi rispetto all'arcigay io ho cominciato a dire, ma come mi vergogno io di essere lesbica? Ed è così che divenni visibile, cioè alla prima occasione io divenni visibile. Senta, aspetta, perché sono tanti temi insieme. Sì, infatti. Sì, tu sei infatti. Ma anche nella mia vita. No, no, non so se vogliamo parlare prima della questione della visibilità, che so, si apre un capitolo grande. Facciamo anche decidere a lei, secondo me. Esatto, o dell'Ornella, del vostro rapporto. Sono insieme, perché io potei diventare visibile perché non stavo più con Ornella. Grazie. Allora, raccontaci allora, la fine della storia di Ornella. Sì, in ordine cronologico, ben prima quello, raccontaci prima quello. Perché poi sulla visibilità ci abbiamo tanto da dire. Quindi è come se questo viaggio, cioè in questo mese e mezzo, te hai vissuto delle cose e lei ne ha vissuto delle altre. Esatto. Ma perché, come te lo sei spiegato in un mese e mezzo, questo cambiamento di Ornella? Io non c'ero. Cioè, ho capito, ma te lo sarai chiesta. Cioè, me lo sono spiegata col fatto che io non c'ero. Ah. Cioè, finché io c'ero, lei comunque aveva quell'identità un po' con me, mandava avanti me, eccetera. A quel punto ha prevalso quello che a lei interessava in quel gruppo di lesbiche. Mentre a me interessava altro. E quindi lei mandava avanti me, perché sempre andava lei portandosi dietro me, poi mandava avanti me, devi far così, dovresti far colà. Tanto io facevo come mi pareva. Nel momento in cui io non ci sono stata, per le altre, perché poi qualcuna me l'ha detto, in particolare, non so se tu l'hai conosciuta, che aveva cominciato a venire qualche volta, la Stefania di Vicenza. Ma non me lo chiede ognuno se me lo riordino, perché tanto me ne riordero una su 40. Era una, sempre di quell'età, una che comunque a Vicenza aveva a suo modo andata all'arcigay di Vicenza, aveva cercato di fare delle cosine e veniva a Verona, perché noi cominciavamo ad essere un gruppetto. E la Stefania a me lo disse, sai, io non me ero resa conto finché tu c'eri, perché per me eravate una coppia. E quindi la lettura delle altre, anzi lei ci rimase molto male di questa cosa, che Ornella poi ci lasciamo, eccetera, perché io e Ornella siamo una serie da 10 anni e per queste ragazze rappresentavamo la possibilità di stabilire un rapporto duraturo, quindi quello rappresentavamo, no quelle con cui mettersi, eccetera. C'era bisogno di una figura adulta, cioè noi eravamo la figura adulta che come coppia proponeva un modello in qualche modo, cioè il fatto di essere una coppia era anche più rassicurante per loro, perché effettivamente c'era quella distanza di età, c'era, e quindi noi eravamo un po' l'accoglienza che gli avrebbe permesso di vivere in un ambiente protetto una storia. Questo rappresentavamo. Quando io non ci sono più stata, e Ornella di questo non aveva la più pallida idea di nulla, forse neanch'io, ora lo vedo, ma vedrai che lei non lo vede, cioè lei a quel punto si è immersa in questo mondo dove improvvisamente lei era tornata ragazzina. Okay. Lei era anche più grande di me. Quell'altro avevano 20 anni, te cazzo ne avevi 33, 34. Non puoi provarci con tutte queste ragazzine, perché tanto la tua fidanzata è via. Approfitto del fatto che lei non c'è, ci provava con tutte, e poi era tanto orgogliosa quando io sono tornata, sai, ci ho provato, sai, non è che c'è stata proprio, però secondo me ci sta, cioè, come se io fossi la sua amica dell'osteria, cioè proprio, guarda, ma questo ebbe anche un riscontro su di loro, perché appunto ti ripeto che mi venne un po' riferito, cioè guarda, te non c'eri, cioè siamo un po' così, perché per noi eravate una cosa che non c'è più. In questo non c'è più, io però parallelamente c'era anche il discorso che io avevo avuto una grossa riflessione politica sulla vita, sui valori della vita, tornando da là, vedendo un mondo così, cioè dove in qualche maniera mi era tornata fuori anche la mia esperienza di quando a 14 anni andavo a leggere cose sull'America Latina, su Medellin, che poi Medellin è in Nicaragua, su tutta una serie, Ernesto Cardenal, cioè era tutto il cattolicesimo del dissenso, che in quel momento era il governo di un paese. Quindi cioè, non poteva essere indifferente, mi ha smosso un monte di cose, tornai con tutti i libri in spagnolo di Ernesto Cardenal, le poesie, questo, quest'altro. E a trovarmi questo, io nel gruppo, quello dell'arcigay, eccetera, si facevano delle cose, io continuai a farle. Il primo atto di visibilità, secondo me, era l'88, cioè in realtà io nell'88 divenni visibile, progressivamente. Il primo atto, che prima mi chiedevate, ma i rapporti esterni, come li gestivate? Sì, sempre attraverso l'arci e così via. Cos'era successo? Non me lo ricordo, secondo me anche la mia sensibilità, che venivo da là, il cattolicesimo del dissenso, contribuì a questa cosa. Si pensò di fare un dibattito su omosessualità e religione, o il cattolicesimo probabilmente. Questo dibattito io mi coinvolsi molto su questo, lo tirai molto, avevo voglia di farlo, per far emergere comunque che era una contraddizione, cioè nel circolo, al di là della questione AIDS, al di là della questione lesbica, al di là di tutto, per me rimaneva comunque un mio percorso politico che volevo comunque condividere e tirar fuori. E ci venne questa idea, cominciavano ad esserci i primi gruppi di gay credenti, mm-hmm. e quindi si invitò, mi ricordo, Don Franzoni, che per me era un mito della mia adolescenza. Don Franzoni era questo prete del dissenso che era stato espletato e che comunque era molto presente sulla scena pubblica, un po' come non era Don Gallo, secondo me, era molto diverso, erano altri tempi, era molto diverso, era più legato agli anni 70 che non Don Gallo, che poi invece era più legato a periodi successivi, anche di più a Don Gallo era più legato a momenti di supporto di chi riteneva svantaggiato, Don Franzoni no, era un teorico sostanzialmente, e su quello fu la critica della Chiesa a Don Franzoni che lo cacciò. Cioè, quindi forse era più vicino a Don Milani, che non è che fu cacciato perché era in montagna, anzi andò in montagna perché volevano cacciarlo. E quindi venne questo Don Franzoni, e però bisognava anche andare a cercare il posto, ci venne in mente che potevano andare alla libreria Rinascita. Tra l'altro lavorava alla libreria Rinascita una che era la sorella di uno che era andato in Nicaragua con mio fratello la prima volta che c'era andata, quindi una che di vista la conoscevo, ci avevo parlato un paio di volte, ma qui non avevo mai suscitato di essere lesbica. Io non credo che incontrai lei, però pensai che insomma qua bisogna andare a chiedere a Rinascita come arcigay, qualcuno ci deve andare. Siccome si era tutti in questa specie di limbo, pensai ci andrò io. Mi diceva, cioè, ascolta, quelli non hanno paura delle bombe, io devo avere paura di andare alla libreria Rinascita a dire che sono lesbica. Andiamo alla libreria Rinascita. Mi dice, andai. Non solo. Poi c'era la coordinata dibattito. C'era, appunto, Don Franzoni ci disse di sì, e poi venne Grillini, perché sai, era il presidente dell'arcigay, c'era stato il congresso nell'87 a Rimini. Io non c'ero andata, non ero ancora abbastanza interna. C'era andata l'Anna Bolognini, quindi non è che io lo conoscessi. Come se la prima volta che l'ho visto, perché non ero ancora divenuta nazionale. E poi venne un gay credente che però non voleva essere citato come nome, perché all'epoca se tu fai un'iniziativa fai manifesti, fai tutte le cose, non è che la fai uma a uma, devi farla sapere, farla conoscere, e si sta un po' sto cazzo il manifesto e io dovevo coordinarlo. Quando si sta un po' il manifesto, cioè, a me mi piace tanto questo un gay credente, oppure non mi ricordo come si chiama, Antonio gay credente. Poi esatto, coordina il dibattito chi? Graziella non credente, cazzo scrivo, Graziella Bertotto. E obiettivamente, ora lo vedranno tutti, lo vedrà qualcuno che mi conosce, verranno a chiedermi ragione, verranno a scuola a dire ma tu sei lesbica, però mi si sente. Cosa mi può succedere? Male male mi licenzieranno. Ma a quelli gli sparano addosso. Io devo aver paura, mi licenzino, mi sembra almeno. Quindi questa roba fatta. Quindi si fece questo dibattito. Questo dibattito, quindi io mi presentai lì, c'era anche qualche giornalista e così via. Una cosa che mi disse Grillini, dopo l'intervistarono così via, mi ricordo che fu, ma qua. Don Franzoni quello che disse fu molto banalmente, ma voi, cosa volete? Non avrete mai semafori verdi dalla Chiesa, fregatevene, questo disse. E quindi cioè, per me era importante questo punto fermo. Il gay credente era una palla, la sofferenza e questo e altro. Grillini fece un discorso che ci stava, secondo me, io coordinai, ma soprattutto io ero lì che ascoltavo, anche per me Grillini, era Grillini, non l'ho mai visto, mai conosciuto il presidente dell'arcigay. Quell'altro era Don Franzoni, che era un mio mito di quando avevo 15 anni. Ricordi, ero tutta presa da questa cosa. Mi ricordo che alla fine Grillini disse, ma fai i giornalisti quanti è? Tutto fu su quel giornale veronese che sarà venuto, che non era certo l'Arena, non mi ricordo cosa c'era allora. C'è sempre, a Verona c'è sempre un secondo giornale, no? Un tempo era il Nuovo Veronese, poi c'è stata la Cronaca, c'è sempre, che non legge nessuno. O meglio che leggiamo noi. Comunque l'articolo fu incentrato sulla presenza del presidente nazionale dell'Arci e su questo Don Franzoni e la Chiesa Cattolica e seminate qua. Mi ricordo che Grillini ma guarda, questi giornalisti non hanno capito qual è la cosa più rilevante di stasera, che c'è una lesbica che è qua come lesbica visibile di fronte ai giornalisti. Non era mai successo, ma tanto non l'ha capito, ed era vero, aveva ragione. infatti nessuno se ne accorse. Scusa Graziella, una piccola parentesi, perché breve, visto che aprirebbe un mondo. In quel momento in Italia le lesbiche non esistevano, erano visibili ma in circuiti protetti. Mm-hmm. Avevano sempre rifiutato, la Piacini che ha studiato adesso meglio di me, venendo dal movimento superiore. Sì, no, ma te lo chiedo proprio come tua percezione. No, mai una lesbica era andata a dire sono lesbica in televisione, ma una lesbica... Ma tu all'epoca che percezione avevi, al di là di quello che hai imparato dopo? Sì, che era così. Ma tu sapevi che esisteva il movimento lesbico? Allora, io cominciavo a saperlo perché questo gruppettino avevamo iniziato a incontrarci. Ovviamente vennero fuori anche delle lesbiche curiose di Verona, che vennero, e c'era qualcuna che aveva il bollettino del CLI. E quindi disse, no, poi c'era quella che diceva, sai che c'è Casa Balena, uh-huh. Piera, sapeva che c'era questa casa di lesbiche, Casa Balena, che era nella pianura padana, lì c'è, che era no, Casa c'era. Balena era l'Umbria. Io ci no, sono... era casa qualcos'altro, vabbè, pesce cane, cioè, okay. Ogni posto ci aveva. Insomma, ecco, cioè, capì, cioè, cominciò a imparare allora con le altre, imparammo assieme che a Milano c'era CCAP, però era come un circuito altro, che tu dovevi entrare in quello per saperlo, sai quelle cose che tu o fai parte di quel gruppo oppure non ti arriverà la notizia, perché tutto quello che vi ha fatto è rivolto a quel gruppo e non hanno nessun interesse a farlo uscire, perché è un gruppo che si protegge, quasi fosse una situazione camorrista, per dire. O tu ne fai parte, sai che avviene, ma se tu non ne fai parte non devi saperlo. E quindi questa cosa però ha fatto sì che per esempio a me non fosse arrivato, finché non ho cominciato a sentire delle altre, ma ognuna sapeva un pezzettino. Cioè c'era quella che aveva scoperto attraverso noi donne, perché noi donne metteva degli annunci, però non è che tu da noi donne e vincessi che c'era un movimento, e vincevi che noi donne dava spazio a delle donne che cercavano altre donne, che era un po' l'equivalente di Babilonia, perché anche su Babilonia c'era qualche annuncio di qualche lesbica. Questo era quello che poteva vedere una come me. Quindi per tornare a questo incontro, Grillini dice così, mi ricordo questa battuta che fece, non cambiò nulla per me, però me la ricordo questa battuta, perché in qualche maniera, cioè, mi confermò che effettivamente non è che io non sapessi di lesbiche che sono andate sul giornale, perché se anche secondo lui non ce n'erano mai andate, forse era proprio così, non era io che vivevo là, però poi comunemente da un'altra parte ci andavano in Italia. Però ecco, rimase lì questa cosa, anche perché all'interno del circolo via via noi ci si trovava il giovedì, e così venne il nome. Una delle riunioni, dopo un po' di tempo che ci si trovava, dopo che io ero tornata dal... e anche forse non ero ancora lasciata con Ornella, però eravamo in non buoni rapporti, pur vivendo ancora nella stessa casa, proprio in quel periodo lì, secondo me era maggio, si fece una riunione, perché si disse, ma qua siamo sempre noi, un po' questo passaggio di amiche, però forse bisognerebbe anche stendere un programma, cioè cosa facciamo? Ci ritroviamo qua e parliamo sempre di cosa potremmo fare, che c'è quella raccontava che c'è il bollettino, era ancora il bollettino del CLI, che c'è il bollettino del CLI, quell'altra dice no, ma compriamo anche noi donne, ma voi conoscete qualche video? Era un po' su questo livello di conversazione che si teneva. Dice no, a fare un gruppo un po' più strutturato, perché non facciamo un telefono amico, c'era il telefono amico del circolo, ma un telefono amico che lo pubblicizziamo come rivolto alle lesbiche, perché non facciamo, visto che ci vediamo tutti i giovedì, un giovedì al mese, magari tu hai quella cassetta, c'era Tre film in croce, mi ricordo ancora, era uscito allora la legge, no aspetta cos'era, La volpe che andava a finire male, Cuori nel deserto, cioè un po' così. Però quattro si riuscì a mettere insieme di questi video. Andiamo avanti tutta la stagione, facciamo una volta al mese un video lesbico. Perché non è che si avesse accesso, cioè proporre quello era proporre il mondo alla lesbica dell'area media. non avrebbe avuto modo di trovarlo, perché comunque anche il movimento separatista che magari c'era era a Roma, non era a Verona, no. Quindi non lo sapevamo noi, figurati queste che sapevano meno di noi. Poi pensavamo, allora un altro giovedì possiamo fare una festa, cioè una roba così. E mi ricordo che ci si mise, cioè, il lavoro di quella sera fu di fare dei volantini, mi ricordo i disegni di Pecilio, fare dei volantini, insomma, come lo chiamiamo? Diciamo, intitoliamo questo volantino il giovedì l'arcigay diventa donna, l'avevamo intitolato così, e si fece il programma, promuoviamo la conoscenza dei video, i libri, facciamo il sollazzo, mi ricordo, avevamo scritto anche questa parola, il sollazzo, cioè nel senso che non volevamo che il messaggio fosse no, ci si viene qua a rompere i coglioni a studiare, no, anche il sollazzo fa parte della nostra vita, dove per soldati intendiamo il divertimento, ci divertiamo, la bellezza. E quindi facciamo così, alla fine facciamo, compiliamo questo volantino e eravamo stanche, era venuto tardi, fu un grosso lavoro quello di mettersi d'accordo, per esempio loro non volevano da nessuna parte la parola lesbica perché poi aveva una connotazione negativa, cioè, si discusse di tutte queste cose, alla fine si trovò la nostra via di mezzo. E si stese. Stanche, ci si dimenticò di questo cazzo di volantino. Si andò a casa. La mattina dopo, quella che era questa stanza, che noi non avevamo quella in fondo, era un'altra, era anche la stanza degli obiettori. L'obiettore arriva e vede questo volantino. Il povero obiettore era abituato che gli faceva il pazzo, come il cazzo stampa. Ed è questo, e dice, vedi, mi hanno lasciato un pazzo da fare, un comunicato stampa, quindi lui piglia il suo elenchino di pazzo che faceva tutti i comunicati stampa, proprio parte questo comunicato stampa, di cui nessuno sapeva che fosse partito come comunicato stampa. Cosa succede dopo questo comunicato stampa? Succede lo manda all'Arena di Verona, che figurati sarà, fra le altre cose lo manda al Gazzettino, che credo avesse un'edizione locale di Verona, cioè il Gazzettino di Venezia avuto, sì, Gazzettino sì, della sì, Venezia sì, c'era l'edizione locale, però in quel periodo secondo me non ce l'aveva, perché sì, appunto era sempre il secondo, no? Per una volta c'era la Cronaca, una volta c'era la Nuova Veronese, una volta c'era stato anche il Gazzettino. Arriva questo fax, qualcuno del Gazzettino cosa fa? Trova molto curiosa questa cosa che arriva dall'Arci e pensa, ah, è una bella cosa che fa notizia, in prima pagina, e purtroppo quello l'ho perso, non so se si riesce a trovarlo, prima pagina del Gazzettino di Venezia, no, la prima pagina locale Verona, Gazzettino Venezia, sotto, ma non ricordo ancora, era in fondo, diceva, aspetta, Sexy Club all'Arci di Verona, no, così. Dai. Sì, come se fosse... Ma era aveva un orientamento di destra al Gazzettino. Sì. Un orientamento di destra e anche di chiesa. Cioè questa roba come uno scandalo, lo scandalo era l'Arci, che dava spazio alle prostitute. Al Sexy Club. Sì, Sexy Club, una roba del genere. Guarda, forse non è il termine corretto, ma una cosa così. Immagini, cioè questa notizia appena esce, l'Arci di Venezia chiama subito, c'era già Attilio Orecchio presidente, chiama Attilio Orecchio, ma hai visto Attilio, che roba è successa, ma cosa fate voi? Attilio Orecchio vede e dice, madonna, cioè, lui lo sapeva, cioè, mi conosceva, io mi sa che facevo già parte anche del direttivo dell'Arci, quindi Attilio Orecchio si spaventa, gli dispiace tantissimo, è una brava persona, ma guarda, che stronzi, cioè, mi chiama subito e dice, ma guarda, l'hai visto, madonna, e c'era il soldazzo per dare soldazzo a, non si sa bene a chi, ai vecchi dell'altro, non lo so, era un articolo orrendo, e dice, no, scrivo subito io un comunicato stampa, dico, va bene, grazie che lo scrivi, ma lo scrivo anch'io un comunicato stampa, quindi non so cosa scrissi. E a quel punto mi firmai come? Il giovedì l'arcigay diventa donna, arcigay donna mi firmai, secondo me andò così la nascita del... Perché non so come mi sarò firmata, mica mi sono firmata nome e cognome, perché avevo questa visibilità che non era ancora una visibilità generale. Ah, certo, generale. Sì. Però ovviamente questa fu troppo, cioè era uno stupido che l'aveva scritto, aveva pestato proprio fuori dal vaso, perché poteva per tanti altri attacchi, ma pensava davvero che fosse un quello di prostituta questa roba quando ha visto l'arciche diventa donna, chissà, qualche malato di mente. Quindi a livello generale Fioretti scrisse, io scrissi, pensarono bene non di pubblicare le nostre lettere, di fare un articolo che rimediava la cosa. Quindi a Fioretti mi chiama per dire, secondo me si è mobilitata tutta l'Arci vicino al Veneto per questa cosa, hanno detto che fanno un articolo riparativo, vengono, ti fanno un'intervista, ti fanno un'intervista a me, anche no, cioè qua hanno preso, cioè vediamo, parlo con le altre, semmai facciamo un incontro. Quindi parlo con quelle che c'era, con queste ragazze, 4-5 dicono sì, dobbiamo rispondere, se c'è questo articolo, io sono d'accordo, ci stiamo, incontriamo, mandano una giornalista donna, incontriamo questa giornalista che parlerà di noi, che riporterà quello che noi diciamo, no? Quello che dice. E quindi si fissa questo appuntamento. Guarda, mi ricordo ancora che secondo me si chiama Nadia Fasani, quella giornalista che venne, perché tanti anni dopo ho visto, ma non lo sapevo allora, che scriveva sul bollettino di Montederico, che ci hanno mandato. E arriva questo da Venezia. Noi diamo appuntamento, viene alla sede dell'Arci, siamo io e altre 3 o 4, e lì, cioè, a quel punto parliamo del gruppo, cioè che cosa rappresentava quel volantino, cos'era il telefono amico, come pensavamo che potesse funzionare, cioè molto onestamente. Lei era un po' che faceva domande, ma io già allora, come al solito, io venivo da un'esperienza politica, quindi quando avevo una sorta di difesa innata dal non farmi portare sul vittimismo, non sono mai stata vittimista, e quindi cioè io tendevo a far vedere il sollazzo, la felicità dell'essere vestica, insistevo sul fatto che era una cosa politica, che questo avrebbe cambiato tutta la società, perché noi pativamo i mali della società, non so che cazzo l'avevo detto. Nel frattempo però le altre non avevano la mia formazione e lei ravanava dicendo ma tu hai sofferto, l'hai detto ai genitori, ovviamente non pratiche, non sgamate, c'era quella che diceva no sì io ho sofferto tanto, lo so che i miei genitori non lo sanno, certo è brutto vivere così, sì sarebbe bello che ci fosse un gruppo, cosa ne uscì di tutto, mi sono rimasto malissimo. Fece un bel articolone che era quello riparatore, e dall'articolo del riparatore io ne uscivo come una specie di brillante capa lesbiche, quell'altro come delle sfigate, perché mentre Graziella dice non ha mai usato il nome, non mi ha neanche chiesto se usarlo, mi sa, cioè, no. Che usava i nomi, no, il mio, quello delle altre, ma tanto senza cognome non vuol dire nulla. Quindi mentre Graziella fa un'azione politica, ha spiegato bene questo, quest'altro, anche il direttivo dell'Arci, quell'altro poverina soffre, in fin dei conti, sta cercando di salvarla, cioè una specie di panegirico a me per questo, e queste sfigate. Come la salvatrice delle sfigate. Cioè, fu bruttissimo, cioè non era la salvatrice io, era le sfigate loro che era brutta assai. Cioè, io non avevo coraggio di dire come era venuto, però mi toccò. Cioè, secondo me io ne uscii male politicamente con loro, perché fortunatamente c'era un'intervista, quindi loro sapevano che come io me ero posta, me l'ha fatto posta così. Anzi, a volte cercavo, sbagliando probabilmente, anche di far dare parola a loro, perché non volevo essere quella che parlava solo io. Avevo rifiutato di fare l'intervista io, perché volevo che fosse un fatto collettivo. Quindi, questo l'avevano capito, però brutto, brutto, brutto. Ma loro ci rimasero male? Eh sì, in particolare una, se l'hai conosciuta la Monica, amica della Luisa e della Betty, ci rimase tanto male la Monica, cioè è una persona fragile, una persona fra l'altro visibilmente molto buccia e che quindi, capito, ed era lei quella che aveva fatto questo discorso della sofferenza, quindi molta parte venne attribuita a lei, c'era cioè lei la vera sfigata, cioè era come se mettessero la sfiga di fronte a chi ce l'ha fatta. Capito? Non era proprio così, ma sotto traccia io lo lessi così e ci rimasi male male, ma pazienza, tirami innanzi. Mentre tirami innanzi, cioè fortunatamente questo non distrusse il gruppo, perché il gruppo partì lo stesso, con difficoltà, ma è quello che accennavo ieri, quando poi a un certo punto io un po' tiravo questa cosa e non subito, dopo pochi mesi, ci fu una serie di lesbiche che avevano cominciato a venire a cui io non andavo bene, avrebbero voluto che quello fosse un gruppo separatista e questa cosa per cui si era andati sui giornali, per cui si cercava di rivolgersi a tutte e a non fare il gruppo chiuso, non gli ci piaceva molto, tanto che dovendomi contestare e mettere ai voti non si sa bene cosa, ricomparve Elisabella. Fu in quel contesto che ritirarono fuori Elisabella per dire che io ero una cattiva persona sostanzialmente, che non fu quello che disse, perché non parlò di me. Quello di cui parlarono fu qual è l'impostazione di questo gruppo. Comunque questo vuol dire che veniva diverse persone a sì, questo gruppo. Sì, aveva cominciato a venire. Perché cioè, non è che alla fine il fatto di essere finita sul Gazzettino di Verona, di Venezia, probabilmente in qualche modo poco poco si è cominciato a parlare. Noi frato continuavamo a promuoverlo, cioè quel lavoro che c'era, e anche i gay del circolo, se tanto conoscevano un'amica, un po' si era diffusa la voce che c'erano anche delle lesbiche verso i gay. Quindi qualcuno arrivava, tanto che arrivò anche la Francesca Vaini, così non so dove l'avesse letto, perché poi avevamo trovato modo, cioè questo volantino di diffonderlo, come lo diffondavamo? Lasciando la Campofiore, okay. Quindi se c'erano delle lesbiche andavano lì, lo vedevano, portandolo, se c'era una faccia all'università, mica volantinava, magari allora, lasciava i lavori strategici, si cominciò così, okay. Quindi qualcuno arrivò, cioè partì con tutte queste difficoltà, la cosa partì sempre sul doppio binario per quanto mi riguardava, perché c'era un binario di fare aggregazione base, un binario di dare una lettura politica di quell'aggregazione base, un altro binario che era quello di fare anche politica complessiva gay e lesbica, dove la questione centrale in quegli anni era l'AIDS, la discriminazione che passava attraverso l'AIDS, tutto questo, e questo fare assieme agli uomini. Avevamo aperto anche la grossa questione del rapporto con la Chiesa Cattolica, perché dopo quella cosa fu non tantissimo tempo dopo quella cosa di cui tu hai la maglietta, che Wojtyla venne a Verona e noi si fece un manifesto che fu bellissimo secondo me. Fantastico. Cosa c'era scritto? Benvenuto a Giovanni Paolo II come noi portatore dell'amore tra gli uomini, arcigay. Bellissimo. Ovviamente si fecero il tacchinaggio, non se ne accorsero. Il problema è che dopo se ne accorsero, quindi non voleva, ci negarono l'attacchinaggio, ma l'aveva già attaccato il comune. Fu bellissimo questa cosa del. Quindi, cioè, si facevano tante cose che erano belle. Cioè, per me cominciò ad essere un momento anche esaltante, no? Dove ne avevo 100.000 e andavo a lavorare contemporaneamente. Io vivevo a malapparato, ho detto qua mio cuore prima ancora lavorare. Senti, andavi a lavorare, ma tu non vivevi se non stavi più con ecco, Ornella? No, stavo ancora con Ornella, vivevo con Ornella. Vivevo con Ornella che faceva sempre più la scema con quelle che arrivavano. E tutta la questione con cui poi ci si lasciò con Ornella è che lei a un certo punto si era invadita perdutamente dell'Elena Mondini, che lei non avrà conosciuto, che al tempo era una ragazzina, dal punto di vista di Ornella, molto bellina, molto femminile, cioè tutto quello che lei aveva in testa. Peccato che avesse quasi 15 anni meno di lei, cioè, anch'io ho 15 anni più della Biagini, ma la circostanza non era quella. E lei cominciò a fare una corte spietata all'Elena Mondini, e poi anche me la raccontava. E anche cominciare le altre a contare, ma Dio è tua fidanzata che la lasci in pace, cioè, ma no. E io non sapevo come fare. A un certo punto, io nella mia testa baccata, perché lì fu proprio una baccatura, ero anche incazzata anch'io con lei, cioè mi disamorai a quel punto, le feci questa sfida per dire proprio per darle uno schiaffo. Le dissi, Ciccio, Lena non ti vuole, Lena Mondini, se ti voleva te l'avrebbe già presa. Non è vero, perché lei non ha coraggio di andare con una donna. Se verrà con me diventerà lesbica, così non lo diventerà mai. Cioè, non è così. Cioè, Elena Mondini diventerà lesbica quando troverà una che le piace. Cioè, non è che deve venire con te. Ma Elena Mondini, scusami, tutto questo veniva già, veniva a circolo. Sì, sì, è quindi lei che la conobbe, portata da altre sue amiche. Quindi c'è mica bisogno di Ornella. Ma questa storia di Elena Mondini era iniziata già, che poi me ne era accorta, perché a volte faceva delle feste, invitavano anche noi. E io mi ero accorta che quel ciccio sempre piccata con Elena Mondini e con chiunque altro passasse, ma in particolare con Elena Mondini. E a un certo punto basta, mi supera il ciccio. Ecco, un te che non ci sta, non è con una donna che non ci sta, il te che mi salta, c'è una scommessa il ciccio, vuoi vedere che con me ci sta? Cioè, guarda, di tutto proprio quello mi doveva venire in mente, non è che io fossi innamorata di Elena Mondini, era proprio per dare uno schiaffo al ciccio. Fatto sta che le vado dietro in questa cosa, e lei mi viene detto, oh sì, figurati, vieni, sì, cioè, facciamo una prova, sai cosa? Domani sera l'invito a casa, tu vai via, stai fuori, torni dopo e poi vediamo com'è andata. Quindi io ho sentito davvero lei la Mondini. Questa viene davvero a casa mia. Il ciccio davvero se ne va e ci provo anche con lei la Mondini, ma la Mondini ci stava. Nel frattempo il ciccio, io non so come sarebbe finita quella sera, e il ciccio impazzì, perché prima secondo me era convinta che Elena Mondini non sarebbe mai venuta. Ha visto che è venuta, non solo, ha visto che dopo 10 minuti non se n'era ancora andata, ha visto che dopo mezz'ora non se n'era andata, quindi io deduco che lei non fosse andata dove non aveva detto, ma che fosse stata sotto casa a tornare. Quando è stato a un certo punto, entra senza dire niente a casa e come mezzo ci stava baciando. E lì è successo, Elena Mondini venne fuori questa cosa, perché poi figurati il ciccio l'ha tirata fuori subito, ecco le scommesse. Quindi io passai proprio per la stronza, che più stronza, lì fu proprio un precipizio per tutto il gruppo, perché oltre a essere quella che soccorreva le bisognose, che voleva andare sui giornali, e cioè divenne anche una stronza che aveva Elena Mondini, ma tolto il saluto tipo per un anno, forse per sempre, poi vabbè, se l'è fatta passare, perché poveretta. Cioè, io non pensavo di piacerle, tra l'altro, perché il ciccio aveva molto lavorato sulla mia autostima. Io ero convinta che a me nessuno mi volesse, meno male mi voleva lei, io ero convinta di tutte queste cose. E quindi, cioè, pensavo, ci provo, ma convinta che tanto andava a schifo, e poi gli avrei detto, vedi, non ci sta neanche con me. Cioè, pensavo che fosse un modo poi per andare a confronto, per scendere un po' sul suo terreno e poterne dibattere, che non restare sempre nel mio algido terreno di quella. E invece andò a finire così. Quindi nella Mondini poi andò via. Perché algido terreno? Cioè, perché comunque io, da un punto di vista sessuale, emotivo, eccetera, ero molto distaccata, cioè davvero mi ponevo, entravo poco in relazione emotiva, io sempre sono entrata poco in relazione emotiva, in maniera particolare in quel contesto. Io mi vedevo più vecchia, mi vedevo, non mi mettevo, io ero già a posto, io per me ero sposata con Ciccio, non è che io stessi cercando una compagna, quindi mi ponevo un po' come quella che aveva avuto una storia molto difficile, molto faticosa, molto dolorosa, e queste ragazze che venivano le vedevo un po', non dico come delle figliole, perché non era abbastanza la differenza di età, ma un po' come una sorella maggiore che è disponibile a dare una mano, a facilitarti un po' il percorso, a aiutare, che voi vi incontriate, no? Che io mi metto nel mezzo, questo era il mio approccio, capito? Col ciccio che ha fatto così, alla fine mi sono invece trovata anch'io catapultata al loro livello, cioè sono diventata una di loro nel bene e nel male, e quindi questo non mi ha, forse è stato anche un bene per alcuni aspetti, perché altrimenti davvero avrei rischiato di fare la madre superiore di tutte ste lesbiche, quindi meglio così. Però contemporaneamente in quella fase, anche perché in quella fase, come dicevo prima, mi giocavo su diversi terreni, sul gruppo delle lesbiche, sulla C-gay, sul cercare di farmi una cieca donna, cioè io comunque avevo anche un problema sul lavoro, avevo una compagna con cui comunque fare i conti, certo che fu un periodo pesante, cioè dove dici, avevo un po' come mia salvezza questo di dire in Nicaragua stanno peggio, cioè questo mi aiutava un po'. Scusa, grazie. No, dicevo, quindi dopo questo episodio di Elena Mondini, molto brevemente, quando è finita la storia con nel giro di, cioè, beh, con Elena Mondini è finita lì. Ma tornare detto lì per lì è impazzita, è fatto. Tornare lì per lì impazzita, e lì per lì impazzita, e ci ha messo tipo una settimana o due a rimpallarsi. è che in questa settimana o due in cui lei si era impallata, io ho trovato un'altra. Ah, ok. Che era la Francesca Raini. Ho capito. E tra l'altro l'ho pure portata a casa, perché a quel punto ci siamo dette, io e Ornella, a quel punto ci siamo dette non siamo più assieme. Ok. E abbiamo, ne abbiamo un po' parlato e quindi abbiamo detto ok, non siamo più assieme, vediamo ora come gestirci la convivenza, eccetera, ma non siamo più assieme. Così te sei libera di fare quel cazzo che vuoi e io pure. Il problema è che lei, che era quella che sembrava la grande conquistatore, alla fine non ha fatto niente. Io in compenso, capo 15 giorni, ho trovato un'altra. Dopo che è venuta a casa una volta, la Francesca Raini, una sera vado a casa, tipo la sera dopo, e trovo un biglietto sul tavolo di Ornella dove c'era scritto: se cercavi un killer l'hai trovato. Oila. Cambia casa. Oh, trovati un'altra casa, una cosa che penso, madonna. Ah, io dopo una settimana devo trovare un'altra casa. E così ci siamo lasciate. Che dopo, in realtà, una volta che io ho cambiato casa, è stata tranquilla, non è più stata killer, ma cioè, mi dà un po' paura. Se cercavi un killer l'hai trovato, trovati un'altra casa. Ma con questa Francesca Raini è iniziata una relazione? È iniziata una relazione che è stato un delirio per due anni, era sempre che ci lasciavamo, ci ripigliavamo, poi lei si è messa con un'altra. Poi io allora soffrivo, proprio un delirio, per due anni con la Francesca Baini, Grillini, perché nel frattempo poi sono diventata, è andata avanti l'altra storia dell'Arcigay, Grillini era disperato. Ma com'era la Francesca? Una palla di donna. No, quando l'hai conosciuta sarà piaciuta. Era una ragazzina di 24 anni, che non era mai andata a letto con una donna, che era studente fuori sede, ma siccome la Francesca Baini non fumava, non beveva, non usciva la sera, abitava sopra Campofiore, non si era mai accorto che Campofiore era un bar gay. Arrivò all'Arcigay una bella sera, tra l'altro alla riunione mista, con un ragazzo. Io, come li ho visti arrivare, ero convinta che fossero due etero possibilisti. Invece no, era uno che aveva incrociato fuori, avevano tutti e due paura di suonare il campanello, quindi sono venuti insieme. E frequentavo l'Arcigay da un mese e mezzo. Ma era palese, l'ho capito più prima che dopo, lei cercava una con cui scopare e trovò me, come avevo trovato il Ciccio, e ci si mise anche assieme. Io poi tendo ad essere fedele seriale, e quindi io appuntavo la Francesca Raini e riborda che ero di nuovo a posto, no? Quindi col Ciccio che mi dice cerca casa, se no sono il killer che t'ammazza. E quindi io cerco casa, trovo un'altra casa, me ne vado e riparte la mia vita. La casa l'ho anche trovata vicino alla sede dell'Arci, e a Campofiore c'era l'Arci, casa mia e Campofiore, quindi tutto a Veronetta, e sei andata a vivere da sola, insomma. Sì, sono andata a vivere da sola. Quindi grazie a te, però diciamo, questa crisi con la, diciamo, questa crisi con il Ciccio, con l'Ornella non è stata, cioè ne avrai sofferto, però poi l'hai anche superata, insomma, non è stato... No, non ho avuto la sofferenza della lasciata, perché lei ora dice che mi ha lasciata, ma non so come definire, mi ha lasciato o l'ho lasciata. Come era, finita la storia. È proprio finita, cioè, a quel punto anche basta. Io per prima ho detto anche basta, poi quando ho visto lì il killer, eccetera, ho detto per carità, vado. Vai, cioè, non è che su questo... Anche non è un caso che di fatti tempo, 15 giorni, ci siamo riviste amiche come prima, cioè non ci siamo più frequentate come prima, lei via via è venuta sempre meno al circolo, perché non aveva più quell'interesse, cioè tutto sommato io ero anche strumentale la mia esistenza, quindi lei faceva quella, capito, col culo coperto, e poi faceva, cioè era un po' quella cosa degli uomini, no? Che vanno a fare i farfalloni in giro perché poi a casa c'è la moglie, cioè mi trattava un po' così, onestamente. E quindi sparita io, come anche quello di andare a fare la farfallona non aveva più senso, secondo me, per lei. Cioè, ha avuto poi delle altre storie, una peggio di quell'altra, ma spesso in maniera così dimostrativa, però non ha più avuto storie reali. Quindi per me lì quello che però è cambiato è che se prima, rispetto a questa visibilità che mi rendevo conto stesse avanzando, ero preoccupata anche per lei, come dovrebbe gestire lei, figurati, era quella che bisognava camminare 20 metri indietro, a quel punto io non mi sono più sentita vincolata, cioè se sei una persona non puoi pensare di essere visibile, di affrontare questa cosa senza coinvolgimento. Cioè, avrebbe rischiato di essere una situazione come quella di quando ho lavorato in carcere, cioè che mi trovavo da sola, non poter neanche parlarne con la persona con cui stavo, perché avrebbe dato addosso a me, che ero la solita, che aveva fatto politica, che ero violenta, cioè che ero violenta, che era la politica di sinistra, che era una comunista, cioè quello avevo rischiato con Marnella. E quindi lì affrontai poi tutto il resto con uno spirito diverso, dovevo rendere conto solo a me stessa. Quindi questa, diciamo, la fine di esercizio ti ha dato anche la libertà poi di sì, perché subito dopo Panorama, una che era la mia fornitura, come si chiama, la giornalista, proprio era una che aveva scritto ancora di Arcigay, lo conosceva anche Grillini, aveva letto questo articolo del Gazzettino e aveva pensato di fare un articolino sulle lesbiche, su Panorama. Panorama all'epoca era una rivista di tipo diverso. Allora, cioè, tra Panorama e l'Espresso sono sempre andati in maniera alternata, in certi periodi più a sinistra Panorama, in certi periodi più a sinistra l'Espresso. In quel periodo Panorama non era più a sinistra, ma era un po' più libertario rispetto all'Espresso. Però sono sempre cose alternanti fra loro due. Quindi Panorama ti leva per un articolo? Mi chiama, mi telefona, cioè telefono al Circo di Verona, cioè all'Arce di Verona, chiedendo, perché aveva letto questa cosa del Gazzettino, chiedendo di chi si occupava di questo, quindi ovviamente mettono in contatto con me. Io a quel punto, cioè, la visibilità nei circuiti ce l'avevo, tipo, avevo rotto quella cosa di andare a Rinascita a chiedere la sede per l'Arcigay, avevamo cominciato a fare i primi banchini come Arcigay, e li facevamo sempre con Passepartout, di modo che andavamo al banchino che era Arcigay Passepartout e tutti noi dicevamo, beh, se qualcuno mi chiede qualcosa dico che sono di Passepartout. Era un giochino, mai ci siamo trovati poi a fare questa cosa, cioè avanzavamo lentamente in maniera molto collettiva, e questa la condividevo molto con i maschi gay, verso una visibilità che non è mai stata una visibilità personale, ma una visibilità collettiva. E io ho avuto sempre questa contraddizione nell'Arcigay, che paradossalmente io, che ero per la visibilità collettiva, quindi per la visibilità poi nel mio caso dell'Arcigay donna, però per dargli visibilità ho sempre dovuto metterci la mia faccia, quindi cioè, sembrava fosse la visibilità mia, era difficile da spiegare questa cosa, perché sembrava una scelta mia quella di essere io con la mia faccia, ecco, non c'era nessun altro, io ho pensato ci fosse qualcun altro, non l'ho fatto più. E quindi lentamente andava avanti questa visibilità in città. Quindi quando questa Laura Maragnani si chiamava, di Panorama ha chiamato l'Arci, gli avrà passato il presidente, Attilio ha chiamato me, dove c'è questa giornalista, do il tuo numero, quindi telefono a me. Quindi io le spiego un po' che cos'era il telefono amico, perché io non voglio quella cosa scandalistica, però trovo interessante perché le lesbiche in genere non si riesce mai a scriverne, perché non vogliono parlare con i giornalisti dei giornali generalisti, quindi, e invece io trovo che sia interessante, io pensai, è interessante sì, perché se lei mette il numero di telefono amico lo facciamo conoscere, quella è una pubblicità vera. E quindi mi disse va bene, parliamo, gli spiegai due o tre cose, gli disse questo è il numero, poi lei fa, ma senti, ma così per dare un po' di contenuto anche, ma se mandassi un fotografo, ho detto, ma, non è che posso comparire io, se vuoi chiedo a un altro paio, a me quello che interessa è che si veda il numero, quindi magari che teniamo il numero di telefono, che ci sia una foto con il numero di telefono, di lì che venga. Quindi venne questo e si fece, cioè che ci si dette disponibile, fumo io, la Francesca Vaini, con cui nel frattempo stavo, quindi in qualità di mia fidanzata, e un'altra, tale Marina qualcosa, che era una che lavorava in banca. La Francesca Vaini però faceva ancora l'università, quindi sai, quando dipendi dai genitori non è la stessa cosa, e questo l'ho capito, però voleva esserci anche lei. E mi ricordo questa foto dove c'era la Francesca di mezzo, girata di spalle, okay, e io e la Marina di faccia davanti, con questo cartello che tenevamo sul culo della Francesca, per dire davanti, con il telefono amico Acide Donna, una roba così, quel numero in grande. Questo, cioè, poi mi chiese anche, ma qua metto il tuo nome, ho detto, ho pensato, tanto parlando di un articolino, una pochina piccola, e non mi ricordo, no, secondo me c'era solo Graziella, non mi chiese neanche, quindi secondo me dice Graziella, Marina, oppure Graziella perché parlai solo io, però pensavo, c'è anche la foto, magari mi riconosco, se magari una foto piccolina, mi disse un trafiletto, quindi mi avventurai in questa cosa. Uscì l'articolo, in effetti era corretto, carino, cioè diceva effettivamente quello che ci eravamo detto, la foto era come avevamo detto, piccolina, quello che si leggeva in grande era il numero di telefono, io e la Marina bisognava guardare da vicino, e rimane il fatto che guarda da vicino, lei lavorava in banca, il direttore della banca la chiamò e le disse, guarda, io non la posso ricercare, però sappia che se dovesse risuccedere questo, lei va a pulire, a fare pulizia. Lei era vice direttrice di una filiale, era una, ci teneva anche alla carriera, e lei non vede più. E te? A me non mi riconobbe nessuno, quindi non si pose fra. Io non lavoravo in banca, io lavoravo a scuola, ma soprattutto nessuno mi riconobbe, cioè io non ebbi conseguenze da questo, perché il cognome non c'era, la foto era piccolina, non so perché lei la individuarono, non lo so. Magari lo saprà meglio lei, magari aveva già avuto problemi rispetto a questo, avevano il sospetto che fosse lei, non lo so, fatto sta che lei non venga più. Scusa Graziella, però questo è qui e dopo l'evento alla libreria Rinascita col nome, quindi già era parte il tuo nome, ma il nome era però a livello locale, a livello locale sui manifesti, però probabilmente a scuola tua ancora non ci arrivava stavolta, non ci arrivava, ma io a quel punto ho detto ora arriva. Ecco, e quindi cioè, come faccio se ora arriva, perché cioè, non è che posso così nel nulla, ora arriva, mi scrive una Marina, cosa succederà? No, io lavoro in una scuola, lavoravo in una scuola media a Castelnuovo del Garda, che era però a 20 km da Verona, prima di Peschiera, quindi sì. E quindi ho pensato, ma cazzo faccio, ma cazzo non faccio, ho pensato devo cominciare da qualche parte. Io nel frattempo avevo imparato cos'era fare la segretaria, ero io che ero segretaria, e un'altra che era applicata in segreteria, che era un po' più vecchia di me, che era lì da tanti anni, una del paese che era anche crocerossina, era andata al terremoto degli Irpinia a fare la crocerossina, amata nel paese, eccetera. Io ho pensato, sai cosa, prova a dirsi, si chiama Sandra, potrei provare a parlarne con la Sandra, cioè a dirglielo un po'. Perché io avevo sempre inventato fidanzati a scuola, sull'esempio di Ornella. Cioè ogni volta che uscivamo con una coppia, magari mi chiedevano, se sono andata con uno, papam papà, raccontavo di Valle, tanto non è che dovessi render conto, ma sai un po' quel sottotraccia, mica mi mettesse a inventare, ma lasciavo credere che magari non ero ancora abbastanza vecchia da dire questa, ci stava che a 30 anni una non avesse un compagno fisso, non fosse ancora sposata, fosse un po' così ballerina, ci stava, non dà sospetto che una sia lesbica, perché poi io ero convinta, come Ornella al tempo, che si vedesse che una era lesbica, ma te pa che sembrava una travestita, che, cioè non è che ci avesse scritto qua lesbica, e anche per come mi conciava lei in quegli anni non c'era la paura che mi vedessero, di venire identificata come la lesbica Butch. Anche lo fossi stata, ero più travestita per come mi vestiva lei, anche sono stata scambiata travestita. Però trovai un po' il modo di dirlo, che non fu quello sono lesbica. Il modo per dirglielo fu faccio attività per l'arcigay. Sono dell'arcigay. Ovviamente era sottinteso. Cioè al tempo non è che uno faceva la ceghetta perché era etero, ecco, non era neanche pensabile, non c'era la solidarietà con i gay, assolutamente. Quando gli dissi così, no, ma cosa fai? Le raccontai, c'era già stato il dibattito, ho detto, vedi, anche qui abbiamo fatto questo dibattito, poi per noi è importante anche tutto il discorso dell'AIDS, poi io mi sto anche occupando un po' di fare in modo che ci siano un po' più di donne, perché anche le donne, anzi le donne sono meno visibili degli uomini, a volte hanno percorso, e ascoltò, poi mi dice, guarda, ti stimavo prima, e ora ti stimo di più. E così, quindi, cioè, lei non lo disse neanche a nessuno, però, cioè, avevo messo un mattoncino, ok? Che ho pensato, se succede qualcosa, lei non era una che passava di lì per caso, lei era una che aveva 20 anni, non dico 20 anni perché era più grande di me, ma non tantissimo, ma se io all'epoca metti ero lì da 3 anni, lei era lì almeno da 13, aveva lavorato sempre solo lì da quando aveva 20 anni. Lei avrebbe protetto, difeso in qualche modo. Ho pensato, qualcosa dirà, certo. Non è che se mi attaccano, mi cacciano, la lei venga a dire sì, è una che con me ci ha provato, perché la preoccupazione è anche quella, con quella gente, in quegli anni, essere lesbica, nell'immaginario collettivo, tu eri una che vedevi una donna e le saltavi addosso, cioè le donne avevano questa paura delle lesbiche, vedevano la lesbica come una potenziale, no. Cioè sì, ce l'abbinavano ad essere peggio di un maschio aggressore, cioè la lesbica è una che ci prova con tutte. E ormai la volta con le sue battutine io mi incazzavo, perché anche alle poste lei con tutte le sue paure poi tornava e diceva, ho fatto una battutina alla mia collega, ci stai messi con una donna, cioè non puoi far così, non puoi essere tu che te le tiri addosso. E vabbè, questo era ormai dove ero io feci così, per cui quando poi non tanto tempo dopo venne l'occasione, io avevo fatto quel passo che si dimostrò fondamentale, perché questo passo si avverò quando uscì questo articolo di Panorama, che comunque passò inosservato, e fu il famoso articolo di Epoca invece, perché in quell'anno, e credo che fosse l'88, a un certo punto ci fu questa prima cosa di lesbiche che fecero un figliolo con inseminazione artificiale. La Rita Faustini, che era una che ora non sto a narrare da dove veniva, eccetera, perché è lunga, al tempo scriveva per Babilonia. Su Babilonia fece un articolo su questo. E ovviamente la stampa gli si buttò addosso, uh-huh. Babilonia. Babilonia tenne duro, non disse mai il nome di questo, uh-huh. Non traferò mai niente, ma questa roba cominciò a... cioè, fu un dibattito a livello nazionale. Sì, sì. E per scrivere degli articoli... Che anno siamo, scusami? 88. 88. Sempre 88. Sì. Sì, fu tutto quell'anno, tornata uh-huh. a Nicaragua. Cioè, per scrivere di questo argomento, trovare delle lesbiche... Era? E quello fu bravo con me, cioè fu bravo a riuscire a farmi fare tutte queste cose, tra tutti e due. Epoca, c'era ancora Epoca al tempo, Epoca, tieni conto che non era Panorama l'Espresso, aveva un'impostazione, io non mi ricordo neanche di chi fosse, se era della Mondadori o che, non me lo ricordo, però un'impostazione più... alla vecchia un po', cioè Panorama e l'Espresso sono nati negli anni 70, Epoca veniva ancora dagli anni 60, agli anni 50 come origine, quindi un po' alto, più di attualità. Sì, c'era anche questo aspetto di attualità un po' liberal, un po' sui costumi, sì. Le cose. Sì, però insomma rivolto un po' a quello che poteva essere non il lettore di Repubblica che magari si pigliava l'Espresso o Panorama, quanto piuttosto il lettore della Stampa, il lettore del Giorno, di questi giornali centristi liberal. E l'Epoca era un po' così. E quindi Epoca a un certo punto telefona all'Arcigay di Verona dicendo, non dicendo che cercava delle lesbiche, uno di Epoca parla con Attilio Orecchio dicendo noi vorremmo fare un'intervista perché sappiamo che c'è un telefono amico gay a Verona, quindi vorremmo intervistare. Quindi lui ce lo dice, io e Lucio ci guardiamo, diciamo facciamo, ma sì, così promuoviamo, dico, guarda, su Panorama era andata bene con questa cosa, e va bene, l'accettiamo questa intervista. Quindi fissiamo l'appuntamento, questo arriva, non telefonico, arriva proprio con un fotografo, il giornalista che arriva è Tony Capuozzo, che doveva ancora andare in Bosnia, cioè, è Tony Capuozzo, all'epoca scriveva per Epoca. Il fotografo era un ragazzino che era Massimo Sestini, che non so se conosciate, è di Firenze tra l'altro, è quello che vinse non so che cosa, divenne famoso perché fece una foto, che non è una decina d'anni fa, quella del barcone dei migranti che lui scattò dall'elicottero sul Mediterraneo. È uno dei fotografi più quotati al mondo in questo momento. Cioè, è molto bravo. Poi lui ha questa cosa di fotografare dall'alto. Ed era di Firenze, ma è un ragazzino giovane. Quindi arrivano, ci siamo io e Lucio. A quel punto dice la verità, Toni Capuozzo, dice: guarda, io lo farò sul telefono di amico di Verona, perché ritengo che voi facciate un lavoro utile, eccetera, quindi vorrei che questa cosa ci fosse, perché così gli diamo anche una lettura di un certo tipo, politica, di impegno sociale, di impegno civile. Ah, però a me questo articolo, quello che vogliono da me è la storia delle lesbiche che hanno avuto il figliolo. E dice: ma non, io sapevo un cazzo di questo, cioè non è il mio. Però fa: vabbè, però qualcosa mi puoi dire. Io fin da allora la mia posizione era quella di dire: non è che essere lesbica ti renda meno capace di essere madre, quindi non vedo che ci sia tutto questo scandalo. Una lesbica è una donna e le donne possono fare i figli, possono non farli, possono scegliere se farli. E anche se lesbica, non sceglieranno le lesbiche perché sono donne, ma perché sono lesbiche. E quindi non vedo dov'è il problema, non vedo dov'è lo scandalo. Questa era la mia posizione, quindi non è che. Allora poi mi ricordo quello che uscì. C'erano poi anche altri articoli, tipo l'intervento di Rodotà, cioè ci misero una serie di cose, tipo poi la striscetta dove magari ti facevano vedere come funzionava l'inseminazione artificiale, tutte queste cose. Un accenno a queste lesbiche di cui tanto non si sapeva niente, venne fuori un bel patocchio. Mi disse anche: ma poi bisogna anche delle foto. E dico: vabbè. Quello venne dopo, però prima si parla, disegna, dice: senti, però ma che nome metto? Perché poi appunto doveva dire che ha intervistato me e Lucio, perché intervistò anche Lucio, c'è anche Lucio all'intervista, quindi anche lui lo disse come gay, parlò soprattutto del telefono amico gay, un po' dell'AIDS, e comunque poi comparve anche lui nell'articolo, certo con meno rilevanza, ma ci fu anche quell'aspetto, quindi era chiaro che eravamo un'associazione mista. Cioè, era chiaro che eravamo soprattutto un'associazione politica, non così che un gruppo che andava a ballare, perché poi quello rischiano di farti passare. E a un certo punto ci dice: ma che nome metto? Non disse rivolto a me, è rivolto a Lucio. E ci si guardò e io mi ricorderò sempre il pensiero che feci. Ma se io mi intervistassero, perché sono la presidente della Lega Ambiente, o per parlare della Lega Ambiente, perché io sono una militante della Lega Ambiente, perché la Lega Ambiente era nell'ARCI in quegli anni e c'era la sede lì, tra l'altro, pensare, mi vergognerei, direi un altro nome, sarei orgogliosa che ci fosse il mio nome e mi devo vergognare perché ero gay. Non pensai a conseguenze, cioè fu proprio, lo trovai assurdo. Secondo me, grazie al fatto delle assurdità che accadevano in Nicaragua, cioè quella cosa mi risuonava sempre. Cioè, lo trovai speciosa, lo trovai, lo so che magari, però vediamo quello che è, non quello che penso che sia, non quello che mi vogliono far credere che è. Cioè, è così. E quindi dici: Graziella Bertozzo, il mio nome è Graziella Bertozzo. Lucio mi guardava e il mio nome è Lucio Tutta. Quindi si comparve col nome. Poi ci fu la questione, diciamo, dobbiamo fare anche delle foto. Allora, una foto, diceva, se c'è la foto, io sono disposta a farmi fotografare, però come con panorama, purché compaia il numero del telefono amico. E così feci, però aveva Massimo Sestini, quindi non era uno che mi pigliò, doveva fare anche solo una persona di foto, doveva anche fare una lesbica di foto, doveva evidenziare il telefono amico di foto. Fatto sta che tanto pensò e tanto fece che mi ricordo, si arrampicò sopra un armadio, io mi dovetti sedere per terra su questo. Cosa pigliò questa foto dall'alto dove si vedeva me che guardo in su e questo enorme numero che era il telefono amico. E la pensi, però, fa, non è che magari tu conosci qualche lesbica che ha un figliolo, le pigliando da dietro, ovvero la pigliando da dietro, fa, giusto per mettere una foto così illustrativa, non nome e cognome, però io lesbica che ha un figliolo proprio non le conosco, soprattutto non conosco neanche donne che hanno bambini piccoli. Poi mi viene in mente, ma sai chi è che ha un bambino piccolo? Il presidente dell'ARCI ha una figliola da 6 mesi. E ha detto, la moglie di Attilio hanno appena fatto un figliolo, giusto lei io conosco. Ma non è che lei potrebbe prestarsi? Io glielo chiedo, quindi chiamo Attilio e gli dico, boh, siamo qua su questa cosa. Ah, Ah, glielo chiedo alla mia moglie, penso abbia problemi, cioè per aiutare la causa, noi l'aiutiamo. Quindi arriva lei con la bambina piccola, con la carrozzina, e dice no, io di spalle, cioè, che mi costa a me, tanto la bambina non si vede il viso, a me non mi si vede. E Capuozzo dice però serve anche un'altra lesbica. Ma io nel frattempo non ho detto che in tutto ciò mi ero anche cambiata look quando mi mise con la Francesca. Ah. Mi ero tagliata i capelli, ero diventata un'altra persona, avevo cominciato a truccare, ero diventata un'altra, ho avuto questa fase in cui ero cambiata, mi vestivo diversamente, avevo cominciato a vestirmi un po' maschile, un po' anche no, insomma avevo anche questa ricerca del look in quel momento, ho pensato. Ah, ci manca quello, la Kelly Pillian, le due lesbiche con la bambina nel mezzo, una con i capelli lunghi e una con i capelli corti. E dicono, quello è l'uomo, quella è la donna, servono due donne con i capelli lunghi. E chi conosco di quei capelli lunghi? L'unica che mi venne in mente raggiungibile di per lì era la nostra fotocopiaia, che era una etero amica dei gay e anche delle lesbiche. E quindi pensate, glielo chiedo se viene lei, che poi era molto amica mia, nel senso che io, come poi è successo a Firenze, io ho sempre avuto la mania dei librini, queste cose, quindi ero una grossa cliente, si chiamava Lorena. E quindi dico, Lorena, non è che te paresti, le spiego tutto, farsi sì. E quindi fecero questa foto con la Lorena fotocopiaia, la moglie di Attilio e la figlia di Attilio nella carrozzina, là dietro. Alla fine fanno tutto questo e mi ricordo che epoca usciva il giovedì. E dice, no, questo giovedì uscirà l'articolo. Quindì il giovedì io vado a scuola, non è che la prima cosa che faccio è andare a comprare il giornale. Eccoci. Però la prima cosa che faccio, entro a scuola, quando entravo c'era la scala, si entrava nel lato, a sinistra c'era il tavolino dei bidelli. E vedo epoca sulla tavolino dei bidelli. Ho detto, oddio. E la Sandra l'aveva comprato. L'Alessandra, la mia collega, l'aveva comprato, ma forse gliel'avevo detto che avevo fatto questa intervista, quindi l'aveva comprato lei, quindi entro a scuola e dico Madonna, e lo vedo com'è. Ecco perché era così. Allora, intanto Copertino non era la prima notizia, ma c'era una cutina piccola. Sì, quella roba, tutina piccola, delle lesbiche mamme, eccetera, e c'era la foto della Lorena e della moglie di Attilio con la bambina. Poi aprivi la pagina, tipo il primo articolo, te vedevi in grande, a sinistra c'era la mia foto tutto grande, con accanto Graziella Bertotto, segretaria di una scuola a Verona. E poi tutta l'intervista, a quel punto non era come panorama, no. E la videro tutti. E quindi l'Alessandra fece finta di niente, cioè ci vende, no, dice no, ma guarda, è venuto bene, sai, l'ho letto, non ti devi preoccupare. A quel punto era pubblico. Il preside, io ero timorosa, venne e mi dice, guardi che non si deve preoccupare, non ho nessun problema, ma qua si è sempre comportata bene, perché mi devo preoccupare? Tranquilla. Ci fu una serie di insegnanti e mi colsero il saluto, quello sì, sicuro, ma tanto che me ne frega, mica era gente che frequentavo, cioè comunque il mio contesto fu favorevole, cioè trovai sostegno, secondo me perché la Sandra ne aveva parlato con il preside, cioè avevo avuto quella mediazione, quindi poi nel corso degli anni, io tra l'altro quando fui pubblico, cioè ho lavorato in quella scuola fino al 95-94, perché poi ha chiuso, è diventata piccola, eccetera, e ho lavorato solo un anno a Peschiera prima di venire a Firenze, perché poi in quegli anni ho sempre lavorato in quella scuola, per esempio ho sempre fatto in modo, eppure pressione ne ho avuto, che non venisse un giornalista a scuola, non ho mai saputo in che scuola lavoravo. L'ho sempre protetto, questo è il posto di lavoro, che cazzo c'entra? Io posso dire, faccio la segretaria in una scuola, ma non ti verrò mai a farmi fotografare sul posto di lavoro, a dirti questa è la scuola, a farti fare un articolo sul mio lesbismo a scuola, perché io quello è il mio lavoro, questo ce l'ho sempre chiaro, e questo secondo me è anche stata la carta vincente, che nessuno ha mai potuto dire che io abbia usato questa cosa rispetto alla scuola, perché la scuola mi ha permesso di tutto. Io per un periodo facevo un giorno di ferie a settimana perché dovevo andare a Roma, mandato l'anno di aspettativa quando l'ho chiesto, cioè rispetto poi all'attività che io facevo, la Sandra mi faceva di nascosto le fotocopie del circolo, quella che ti dice nella scuola, perché non ero tanto d'accordo se facesse queste cose, allora lei ti dava in mano la situazione, arrivavo e mi faceva trovare volantino, cioè lo faceva spesso questa cosa. Sì, quindi capito, e poi è ovvio che se c'è una metà di gente che mi toglie il saluto, se ti erano loro che avevano bisogno. Ma senti, oltre la scuola ti sembra che sia cambiato in qualche altro contesto, cioè la tua visibilità a quel punto? A quel punto la mamma, cioè prima di mamma avevo detto che andavo all'Arcigay, anche quello fece ridere, perché quando, cioè, credo che gliel'avevo detto che ero ancora con Ornella, che avevo cominciato ad andare all'Arcigay, poi lo ripetei quando mi lasciai con Ornella, perché ho pensato qua divento visibile, mamma lo deve sapere. E quindi mi disse, no ma vabbè, ora magari fai anche cose buone, però vabbè, basta che tu non vada sul giornale. Poi vado sul giornale, qualcuno l'ha vista, metti parenti, qualcuno gliel'ha riferito. E dice mamma, cioè, d'altra parte se si vogliono fare le cose non è che si possono nascondere le cose, sì, che si fanno, eh sì, va bene, basta che tu non vada in televisione. Va bene, quando puoi andare in televisione, allora figurati, tutti le dicevano che l'aveva vista in televisione, allora lei diceva sempre, ah io non l'ho vista, e quindi mi disse, vabbè mamma anche lì se mi chiamano non c'è nessuno che ci va, ci devo andare io. Dice, vabbè, però non dirmelo quando ci vai, che così io tanto non le guardo quei programmi, se poi mi chiedono io dico che io non l'ho vista, perché è vero. Poi una volta le capitò di vedere non so che programma in televisione, sai che hai fatto anche bella figura, dimmelo quando vai, che ti vai. Quindi che poi non ci andai più e così il problema non si pose. Cioè, nei diversi settori della vita e nella mia relazione, sì. Cioè la visibilità nella vita, nella quotidianità che avevo prima, che ho continuato ad avere dopo, ha avuto i suoi spostamenti favorevoli secondo me. Il dramma è stato un altro, che la visibilità ha comportato l'impossibilità di avere una vita normale. Cioè quell'altra vita veniva sempre più risucchiata da quest'altra vita che io non vivevo come vera, ma questo è avvenuto non subito lì per lì, questo è avvenuto quando sono diventata segretaria nazionale della CGI. Però là ci fermiamo perché sono le due e ci fermiamo qua. Sì, diciamo. E quella è un'altra partita, esatto. Cioè, perché ci sono un paio d'anni. C'è buono, ma almeno un punto. Sì, sono un paio d'anni, arriviamo a epoca. Cioè, perché poi è partito tutto il resto. Allora io spengo, Sì, epoca.